140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Le abbiamo raccontate in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco le protagoniste dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Westhafen Convention Center, Berlino. Torna Orange is the New Black. A raccontare la nuova stagione della serie Netflix, le protagoniste Kate Mulgrew, Red e Uso Aduba. Occhi pazzi. I am so happy to meet once again these two. Sono contenta di ritrovare due donne pazzesche, Uso e Kate. Lo sapete che siete molto amate dal pubblico italiano, siete due eroine. We love you so much. Why do the Italians love us? Perché piacciamo agli italiani? I think forse perché siete due donne molto forti. Agli italiani piacciono le donne forti? Buono a sapersi. Vorrei sapere cosa dobbiamo aspettarci dai vostri personaggi in questa nuova stagione. Più. I have a direct path. Io ho un percorso diretto, non è che non sia accidentato, lo è, ma è diretto. Sono alla ricerca di qualcosa e nel frattempo incontro una compagnia deliziosa e piuttosto stramba. A very unexpected, delightful and whimsical partnership which lasts for a few hours. And then I come to another juncture. Poi però arrivo in un altro punto della prigione e lì trovo qualcosa di diabolico e spaventoso, ma devo proseguire il mio cammino. Tutto questo diventa davvero terrorizzante. It culminates in something that's pretty terrifying. Ma sei impazzita? No, è arrabbiata. Siamo tutte arrabbiate. Tu hai fatto un torto alla nostra amica, signor Caputo. E noi vogliamo giustizia. Indirizzata a chi di dovere. Noi, detenute di Litchfield, siamo esseri umani. Stiamo protestando per le condizioni degradanti nelle quali siamo tenute. Gli offriamo uno spettacolo. Diventeremo super famose. Sorridi con gli occhi. Hai capito che cosa sto facendo? Veniamo picchiate senza motivo. Siamo stipate quattro per stanza come polli di allevamento. Ci negano un trattamento umano. Come vi aiuto? Non piacerai alle altre. La storia della mia vita. Wow, now I'm thrilled and I'm looking forward to see this new season. What's the secret about this? A questo punto non vedo l'ora di vedere la nuova stagione, ma qual è il segreto del successo di Orange is the New Black? What's the secret about Orange is the New Black? The secret of its success, you mean? Yeah. Il segreto del successo? La gente usa un'espressione che io non amo molto perché in inglese sembra quasi una parola inventata. Relatability, cioè che ci si può identificare. Ma è perché per la prima volta nella storia della televisione tu guardi queste donne e senti che potresti facilmente essere una di loro. C'è una grande empatia tra lo spettatore e i protagonisti di Orange is the New Black, tra la nostra realtà e la tua. Credo che una cosa del genere non l'abbiamo mai vista. Abbiamo sempre guardato la televisione così. We've always watched TV like this, and now we're watching it like this. E ora la guardiamo così. È una dinamica molto diversa. Quanto è importante raccontare donne forti in questo momento non sempre facile per le donne? Penso che il fatto che lo facciamo con onestà e sappiamo come farlo sia un altro ingrediente del successo della nostra serie. La stessa Genji, l'autrice, è sempre alla ricerca della verità. Genji herself as a writer is really an investigator of the truth and I think that is... Credo che questo impregni ogni fibra della sceneggiatura, che sia ben interpretato dai suoi attori e che sia trasmesso da una rete, o meglio da un servizio di streaming, interessato a voci nuove, fresche e oneste. E che quello che riusciamo a far venire fuori siano donne coraggiose, potenti, che danno il meglio di sé e della loro forza. Through that examination and mission, women who are empowered and emboldened to be their best and strongest selves. Yeah. I think as our political climate goes one way, Netflix will go. Credo che se il clima politico va da una parte, Netflix va ancora con maggior forza dalla parte opposta. Sarà un assalto diretto e una resistenza creativa. L'arte non piega la testa di fronte a queste cose, le trascende e le sorpassa. E lo faremo. Fai quello che devi fare. Non devi niente a nessuno. Mio Dio. Avevamo l'occasione di comandare sul serio. Non volete comandare? Se hai un problema, risolvitelo. Questa è casa mia e ho intenzione di battere. Di a quella donna cosa vogliamo. Vogliamo essere prese sul serio, porco cazzo! Proprio esatto. Così. L'unica soluzione è quella di restare unite. Ottima idea! E magari insegnare qualcosa alle più giovani che, guardando una serie TV, possono imparare, essere ispirate senza saperlo. Cosa ne pensate? Learn without knowing? I think it's great. I think, you know, I think it's wonderful that a show that Orange is the New Black is around. Credo che sia favoloso che ci siano show come Orange is the New Black o altri su Netflix, che mettano in scena donne forti, piccole o grandi, che ci permettano di vedere veri riflessi di noi stesse davanti ai nostri occhi, che ci mostrano esempi diversi di quello che può rappresentare l'essere donna. Credo che in questo movimento neofemminista l'idea fondamentale sia quella del poter scegliere la propria vita, di lavorare o di stare a casa, di scegliere a cosa dedicare la tua forza. Going to work or choosing to stay home, the choice of being how do you want to hold on to your own power? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Uso Aduba e Kate Mulgrew. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.